per quanto riguarda quanto sta avvenendo allo spazio comune Cinema Aquila, abbiamo in collegamento Stefani. Pronto, ci sei? Ciao. Allora, parte da oggi una rassegna di cinema palestinese. Raccontaci un po' cosa è successo. Allora, oggi abbiamo in programma due iniziative. Una è la proiezione di un film, The Wanted 18, che racconta una storia molto interessante di alcune mucche che sono diventate le più ricercate fuggitivi di Israele durante la prima intifada. Un film che mischia un po' l'animazione con documentario, riproduzione, per raccontare questa storia della resistenza palestinese. Sì. Scusate. E, a seguire ci sarà lo spettacolo di mi chiamo Rachel Corey, sui testi diari della scusate. Sì, lo abbiamo ospitato tra l'altro la scorsa settimana, Maria Laura Caselli, la dovremmo sentire anche telefonicamente fra poco, insomma, per parlarne. Perfetto, sì. E quindi ci sono queste due iniziative in programma, poi altre due domani con This is My Land, Hebron e Salt of the Sea, che sono parte della 13ª settimana contro l'apartheid israeliana, che è questa iniziativa che si fa in più di 200 città in tutto il mondo per sensibilizzare il pubblico su quello che succede in Palestina. E tutto questo, come si sa, ha fatto scoppiare le solite polemiche, le solite false accuse contro chi promuove questo tipo di iniziative di antisemitismo. Addirittura c'era qualche accusa di sostegno al terrorismo, che sono tutte ovviamente accuse che rigettiamo e rispediamo ai mittenti. E quindi si sono quello che abbiamo visto come un copione che si ripete ormai da anni, di tentativi di cercare di fermare queste iniziative quando c'è qualche tipo di appoggio istituzionale, che sappiamo che Cinema Aquila è del municipio V di Roma, e cercare di bloccare qualsiasi di queste iniziative con queste false accuse. Quindi da una parte ci sono queste accuse infamanti, dall'altra parte purtroppo abbiamo visto più volte anche le amministrazioni e istituzioni italiane, da università, città, consiglio comunale e così via, cedere a queste pressioni per bloccare le iniziative, senza mai poi interpellarci per capire chi siamo e cosa chiediamo. Sì. A questo proposito, domenica scorsa c'è stata un'assemblea che ha deciso comunque di mantenere la programmazione dopo la crisi della programmazione condivisa con il municipio, giusto? Sì, un'assemblea molto partecipata, che innanzitutto ha cominciato con la proiezione del documentario sulla scossa solidale della risposta dal basso alle popolazioni di Amatrice e dintorno a seguito dei terremoti. E quindi è molto bello vedere questa risposta, era un momento giusto poi per parlare di questa gestione dal basso del Cinema Aquila insieme con il municipio, questo esperimento di tra finanza e gestione, e fare poi questi tempi di denuncia. E senz'altro c'era la ferma volontà di andare avanti con la programmazione, non accettare questo tipo di censura, anche perché non ha nessun senso, perché c'è stata un'interrogazione accusandoci di antisemitismo da parte di un consigliere di Noi con Salvini, a cui ha risposto molto bene il municipio. Le risposte difendono questi film e queste iniziative meglio che potrei farlo io, e quindi non si capisce per niente perché poi alla fine hanno deciso di cedere e bloccare la proiezione. Stessa cosa è successa al Palladium, dove era in programmazione per domani mercoledì 15 3000 Nights di Masri, ed è stato annullato l'evento. Sì, qua abbiamo visto di nuovo l'Università Roma 3, il Palladium fa parte di Roma 3, sì. E quindi di cancellare questa iniziativa di presentazione, la prima nazionale in Italia di questo film. Ricordiamo che già in passato Roma 3 ha negato gli spazi all'ultimo minuto per un importantissimo convegno a cui partecipava lo storico israeliano Ilan Pappé, che è molto critico delle politiche del governo israeliano. Quindi vediamo, come ho detto, proprio un copione di cercare di bloccare qualsiasi iniziativa che ha un sostegno istituzionale sulla Palestina. Quello che noi vogliamo fare è ribadire questo diritto di parlare della Palestina anche nelle sedi istituzionali. Sì. Allora, intanto ricordiamo che 3000 Nights in programmazione al Palladium per domani c'è ugualmente, ma alla sede dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in via Ostiense. Invece, per quanto riguarda la programmazione al nuovo Cinema Aquila, ci ricordi il calendario per la Palestina? Certamente, stasera ci vediamo lì verso le 18:30, alle 19 ci sarà la proiezione di The Wanted 18 e a seguire alle 21 lo spettacolo teatrale Mi chiamo Rachel Corey. E domani invece abbiamo la proiezione alle 19 di This is My Land, Hebron, e a seguire alle 21 il film The Salt of the Sea. Bene, ci sono degli spazi internet dove vedere con più dettagliatamente la programmazione? Certamente, sul sito di bbsitalia.org oppure la pagina Facebook di BBS Italia c'è tutta la programmazione. Poi la programmazione del Cinema Aquila c'è sulla pagina Facebook Spazio Comune Cinema Aquila. Benissimo, allora un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao.